l'iniziativa di una punizione nei confronti di un adulto che presta la sua opera come professionista nello studio della RAI e che svolgendo tale opera di professionista nello studio della RAI, cioè della televisione pubblica italiana, non ha violato alcuna legge, alcun regolamento o alcuna norma, anche interna o anche tipica di un particolare programma o di una particolare angolazione di quel programma, la punizione della persona per una ragione successivamente individuata e successivamente indicata come lesiva del prestigio dell'istituzione, tale da meritare la punizione, e che la punizione che si manifesta nella sospensione, tutto ciò descrive ciò che è accaduto nella trasmissione Anno Zero, nel programma Anno Zero della settimana scorsa, e nel rapporto fra il vignettista Vauro, persona di alta e riconosciuta professionalità nel suo campo e tra l'altro in molti altri campi, tra cui soprattutto quello umanitario, e la direzione generale della RAI. Ecco, da cittadino italiano trovo la cosa umiliante, da parlamentare italiano trovo la cosa inaccettabile, da protagonista del nostro tempo e dei nostri giorni, essendo purtroppo persona con un certo carico di anni, la trovo francamente tipica di un altro periodo della vita che ho vissuto, ma quel periodo viene prima del 25 aprile 1945, viene prima della liberazione, viene prima di quel 1948 in cui l'Italia si è data la Costituzione nata dalla Resistenza, che è una Costituzione di uomini liberi e che impedisce che qualcuno sia punito nella doppia incongruenza e illegalità della colpa definita dell'infrazione o colpa definita successivamente all'averla compiuta, e comunque per questa ragione estromesso da uno studio della televisione pubblica che è tipicamente responsabilità della Repubblica Italiana. Dunque mi oppongo, mi indigno, denuncio e posso anche dire il mio dissenso da Santoro, che ha accettato di fare sia pure apparentemente, perché le vignette ci sono comunque state, ma ha accettato la forma, anche soltanto l'accenno formale di ubbidienza attraverso la mancanza della presenza fisica di Vauro nella trasmissione di Anno Zero successiva a quella della illegale, illegittima, inammissibile condanna. Dunque solidarietà a Vauro, ma anche solidarietà ai cittadini italiani a cui è negata la legalità, solidarietà a quei colleghi della RAI che si sono indignati e opposti, e un senso di pena per coloro che in tutte le posizioni, comprese quelle più autorevoli, hanno invece ritenuto di tacere.